Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. In Sargante il traghettatore, bentrovati in questa edizione domenicale di Ferry Boat. Partiamo subito con le quote di genere. Forse la parola non vi dice molto, in realtà si chiamavano prima le quote rosa e sono quei dispositivi di legge, di regolamenti che servirebbero a garantire la corretta applicazione delle regole nell'ambito delle imprese pubblico-private quando si parla di donne. Funzionano nei consigli di amministrazione, nei collegi sindacali e non solo, ma sono accettate dalle donne oppure non è esattamente questo il problema secondo chi ritiene di essere discriminato? Se ne discute a Roma domani pomeriggio a Palazzo Marini, è un convegno organizzato dalla prestigiosa Fondazione Bellisario Lazio in collaborazione con Deloitte e l'Ordine dei Commercialisti. C'è un esempio che vogliamo raccontare oggi di finanza etica a servizio della raccolta fondi, quindi per una causa nobile. Un racconto interessante perché è un sistema originale e soprattutto molto efficace per raccogliere questi fondi. Ne parliamo direttamente con il direttore generale della Banca di Chiarasco, che è promotore di questa iniziativa a favore della Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Giovanni Bottero è con noi, salve direttore. Qual è la causa nobile che perseguite e come funziona questa raccolta fondi? Buongiorno a tutti e grazie per avermi interpellato. La causa nobile è quella di portare del fieno in cascina, del denaro in cassa alla nuova fondazione dell'ospedale Alba Bra, in modo da poter intervenire nell'ospedale edificando e riuscire a dare un servizio ai degenti, ai pazienti, che sia pari o quasi simile a quello di un hotel a 4 stelle. Quindi la fondazione interviene per aiutare l'ospedale, quindi il pubblico, nell'allocare risorse e investire in strutture, in infrastrutture, in mobili, in attrezzature e rendere quindi molto più agevole la vita al paziente. Ecco, la singolarità poi di quello che abbiamo letto che ci ha colpito della vostra iniziativa è che è quasi un meccanismo automatico, quindi c'è una garanzia importante di raccolta dei fondi. Come funziona esattamente? Ecco, esattamente funziona in questo modo. La Banca di Chiarasco, prima banca in Italia a percorrere questa strada, cosa ha chiesto autorizzazione a Consob, che l'ha gentilmente concessa, di emettere delle obbligazioni, dei PO, prestito obbligazionario, con un tasso di favore importante, il 3,75 lordo, con la ritenuta del 12,50, che insomma paga e remunera molto bene il sottoscrittore, il socio, il cliente, colui il quale viene a versare questi soldini alla Banca di Chiarasco, ma in realtà lo 0,50 viene devoluto direttamente alla Fondazione dell'Ospedale Alba Bra, quindi c'è un doppio vantaggio per il sottoscrittore, un tasso molto interessante, la garanzia di un investimento sicuro, ma soprattutto anche la detraibilità fiscale di questa somma, di questo 0,50 che va direttamente nelle casse della Fondazione dell'Ospedale Alba Bra. Quindi è un automatismo perfetto, c'è il sottoscrittore che versa il milione, può versarne anche tanti milioni di euro, può versare anche solo 1.000 euro, viene remunerato da 3,75, questo 0,50 viene... Va direttamente. Infatti è un meccanismo assolutamente virtuoso, win-win direbbero gli anglofoni, che funziona per tutti. Complimenti direttore, speriamo che questa pratica che voi avete, come dire, inventato possa diffondersi tra le banche di questo paese, sarebbe davvero bellissimo. Grazie direttore. Sarebbe interessante, grazie. Grazie. Grazie a lei, buongiorno. Martedì a Roma c'è Carta per un'Europa di responsabilità sociale nella sala della Biblioteca dei Camere dei Deputati. Il tema del convegno è proprio quello di dare all'Europa una carta sulla responsabilità sociale condivisa, una sorta di regola internazionale che valga per le imprese. L'incontro è organizzato da Econometica e dalla Fondazione Basso di Roma con la collaborazione del Consiglio d'Europa. Abbiamo finito anche per oggi. Ferry Boat, @radio24.it per le vostre segnalazioni. In redazione Anita Panizza e in regia Valeria Bernardi. Alla prossima.